Gli israeliti avevano giurato in Mizpah che nessuno di loro avrebbe mai dato in sposa una sua figlia a un beniaminita. Perciò il popolo andò a Betel e stette là fino a sera alla presenza di Dio, alzando grida di dolore e piangendo senza freno. Perché, o Signore, Dio di Israele, è accaduto ciò in Israele, che una sua tribù oggi sia scomparsa? Il giorno dopo, il popolo, alzatosi presto, costruì sul posto un altare, offrì olocausti e sacrifici di comunione. Poi gli israeliti domandarono: chi è fra tutte le tribù di Israele che non è venuto a questa assemblea davanti al Signore, che si giurò solennemente di mettere a morte chiunque non fosse venuto davanti al Signore a Mizpah? Gli israeliti erano presi da pietà per Beniamino, loro fratello, al pensiero che quel giorno una tribù fosse stata rescissa da Israele. Come ci comporteremo, pensavano, con quei superstiti riguardo alle donne, che abbiamo giurato sul Signore di non dare a loro spose fra le nostre figlie? C'è qualcuno, andavano dicendo, fra le varie tribù di Israele, che non sia venuto a Mizpah davanti al Signore? Si trovò che non era venuto nessuno, né al campo né a quell'assemblea, da Jabes di Galaad. Si contarono tutti, ma non si trovò nessuno degli abitanti di Jabes di Galaad. L'assemblea mandò in quella località 12.000 uomini dell'esercito con quest'ordine: andate e uccidete gli abitanti di Jabes di Galaad, comprese le donne e i bambini. Farete così: ucciderete ogni maschio e ogni donna che abbia avuto relazione con un uomo, ma risparmierete le vergini. Così fu fatto. Trovarono fra la gente di Jabes del Galaad 400 ragazze vergini che non avevano avuto relazioni carnali con uomini. Le condussero al campo di Silo, che si trova nella terra di Canaan. Poi tutta l'assemblea decise di inviare messaggeri ai beniaminiti che si trovavano alla rupe di Rimmon per fare la pace. I beniaminiti allora tornarono alla loro terra e furono loro date come spose le donne di Jabes di Galaad, cui era stata risparmiata la vita, ma il loro numero risultò insufficiente. Il popolo provava compassione per Beniamino al pensiero che il Signore aveva aperto una breccia fra le tribù di Israele. Gli anziani dell'assemblea dicevano: come facciamo coi rimanenti superstiti riguardo alle donne, che non ce n'è più una nella tribù di Beniamino? E soggiungevano: ci deve essere una discendenza per i superstiti di Beniamino, non scomparirà una tribù di Israele. D'altra parte, noi non possiamo dare loro in moglie le nostre figlie. Infatti, gli israeliti avevano giurato, dicendo: maledetto chi darà una donna a Beniamino. Allora venne loro in mente che ricorreva la festa annuale del Signore a Silo. La città è situata a nord di Betel, a oriente della strada che da Betel porta a Sichem e a sud di Lebona. Allora ordinarono ai beniaminiti: andate a mettervi all'agguato per le vigne. Quando vedrete le ragazze di Silo che escono dalla città per danzare in coro, venite fuori dalle vigne e rapitevi le ragazze di Silo, in modo che ne tocchi una per uno. Poi raggiungerete la terra di Beniamino. Se i padri o i fratelli delle ragazze verranno a chiedere giustizia presso di noi, li pregheremo di essere indulgenti con voi per amore nostro, perché non ci è riuscito di prendere con la guerra una donna per ciascuno di voi. Che, diremo loro, non siete stati voi a darle loro in moglie, solo in questo caso sareste stati colpevoli. I beniaminiti fecero così, e fra le ragazze rapite mentre danzavano se ne presero tante quanti erano loro, poi se ne tornarono alla loro terra, dove ricostruirono le città e vi abitarono. Allora anche gli israeliti se ne andarono di là, ciascuno alla sua tribù, alla sua famiglia, alla sua terra. A quel tempo non c'era re in Israele, e ciascuno faceva quel che più gli piaceva.